Eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti. Buon pomeriggio e di nuovo ci siamo in due e mezzo, dai, oggi. Ormai a parte Drio che ormai è dei nostri. Siamo solo due e mezzo con Drio, qua ci abbiamo anche la nostra carissima Tiziana in studio e poi abbiamo dei collegamenti oggi veramente inverosimili. Siamo infatti un sacco di telefonate e partiamo con la prima. Chi c'è? Chi c'è dall'altra parte del telefono? Radio Contado, mi sentite? Oh. Ormai è una co-conduzione a quanti chilometri di distanza? 200, 250? Mulo? Cara Camilla, cara dama, bentornati, bentornata dama, specialmente tu e ciao. Grazie a Mulo. Un bacione a tutti. In diretta dal Flixbus, te, noi da Frittole, te? No, invece io e il buon Sancho siamo arrivati ora a Roma Tiburtina, che è un posto meraviglioso in cui vorremmo invitarvi tutti. Quindi diventiamo pluriregionali, abbiamo anche una diretta da Roma! È incredibile, se io potessi in questo momento rappresentare tutta l'urbe eterna, ecco, siamo sì, in uno dei posti più trafficati, anche un po' più sudici. Se prendemo Roma, ma che ci fai con quella brutta figura che è Sancho da quelle parti? Cari miei, oggi il buon Sancho innanzitutto, che sta andando ora a prenderci un paio di supplì tra l'altro, quindi salutandovi se ne va dall'altro lato della strada, chiusa parentesi, siamo stati invitati da un collettivo romano che si chiama Sapienza Clandestina e ovviamente fa parte dell'università della Sapienza, riunisce diverse facoltà e vogliono fare un bel dibattitino in cui per esempio anche la contabilità è stata invitata e quindi eccoci qua a Roma. Che bello, io stavo spacciando che Mulo era andato alla Sapienza, mi immaginavo già nell'Ateneo, nell'Aula Magna. A tenere una lezione universitaria. Esatto. Camicia, adesso non tagliarmi le gambe, io spero proprio che in capo un'oretta io possa essere, se non nell'Aula Magna, quantomeno in un bagno della Sapienza. Poi da lì terrò una conferenza privata. No, sarà un incontro, sarà un'assemblea aperta, una discussione. Ma meglio dell'Aula Magna. Vero la Magna, dai, non andiamo subito a farci vedere. Prima partiamo dai sottoboschi noi, per rimanere in tema. Ma che meraviglia! Guarda, bellissimo, questo inizio alternativo ci è piaciuto, lo faremo ogni volta, visto che qualcuno mancherà sempre. Ma devo stare a Roma Tiburtina tutti i mercoledì, no? Ma provaci, poi tanto puoi stare anche a Milano, a Palermo. Oppure ci alterniamo. Puoi essere il nostro Tony Capuozzo, Mulo. Non so se un'ambizione che, ecco, mi sento di reclamare, però come diceva la buona dama in sottofondo, ma perché non ci alterniamo, non so, potresti andare anche a vedere, non so, a casa Pusterlengue Est, come sono messi i cassonetti da Monnezza, Camicia. Accogliamo il tuo consiglio, assolutamente, sei il nostro maestro. No, tesori, ricordiamoci tutti, e la radio ce lo ripetiamo ogni volta, serve a questo, il nostro obiettivo come contadini, ma proprio come individui, è uscire dai nostri schemi, dai nostri parametri abituali, dalla nostra zona di comfort, iniziare a chiacchierare con persone che, ecco, stanno un attimo fuori, perché sennò continuiamo a raccontarcela. Siamo dei connettivi, più che dei collettivi. Noi vogliamo i cittadini, non i campagnoli. Sì, ma infatti sono a disagio come poche volte nella mia vita. Ma cioè, che ci sguazzi nelle pizze al taglio romane, dai retta. Quello sì, comunque da buon panettiere adesso andiamo a indagare quanta pasta madre c'è in questa pizza fritta che si dice molto buona. Ma sei almeno vestito in tenuta da campagnolo o ti sei mimetizzato con la città? Assolutamente no, perché diceva un carissimo amico che mi piace abbracciare a distanza, Damiano, no, vestiti bene e comportati male, io sono in giro che mi sono vestito come al cenone di Natale. Grandissimo amore. Maglioncino, scarpa elegante, pantalone nero, cioè no. Ho capito, non è la discesa dei barbari, insomma. No, ho capito che è un'altra cosa, sì, sì. Tanto del buon Sancho che si presenta con le padellate d'ulco, però ecco. Sì, per sfatare il mito del ragazzo di campagna. Sì, peccato che non l'abbiamo davvero, non l'abbiamo quel brano ora. Non glielo dite che l'ho detto. Senti, Mulo, vuoi lanciare te il primo brano della trasmissione, che si chiama E tu dei Bud Spencer Blues Explosion. Oh, che bellezza. Lancialo, vai. Tanto, così Drio è gasatissimo. Vanno ascoltati tutta la vita, perché c'è una chitarra e una batteria che ti portano via. Quindi con grandissima gioia, da capitale del nostro paese, io davvero vi ringrazio la chiamata e lanciamo sto pezzaccio così per iniziare. Buona trasmissione a tutte, buon ascolto a tutte. Ciao Mulo e buon intervento alla Sapienza. Un abbraccio. Registrerò tutto. Ciao. Come so, Eccoci, e visto che oggi è la giornata, la puntata delle telefonate, siamo subito in diretta, in collegamento col telefonico con Roberta, che ci parlerà un pochino, insomma, di quel che succede anche dalle parti di Bologna. Noi ormai quanto sarà, Camicia? 2 mesi fa, 3 mesi fa? Eh sì. Avevamo ricevuto questa mail dal nostro radioascoltatore Joe Hunt di Bologna, in cui ci scriveva: qua a Bologna c'è un discreto movimento per le questioni relative alla riqualificazione del bosco urbano dei prati di Caprara, circa 40 ettari di verde che sono attraversati da Via Emilia a pochi passi dall'ospedale maggiore e che, come potrete già immaginare, rischiano di essere cementificati. Quindi esatto. Noi, per introdurre, diciamo, oggi nella puntata di oggi che abbiamo, ci è piaciuto chiamare "Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza e la disobbedienza diventano un dovere", frase di Bertolt Brecht che ci piace diffondere e divulgare. Allora abbiamo detto: chi è in questo momento, insomma, che sta facendo ciò, no? Che sta proponendo delle alternative, lottando per riqualificare dei posti, ridare dignità a delle esperienze, eccetera. E quindi pensavamo bene di... In quel di Bologna, esatto, c'è, cioè, questo, non so, adesso ce lo spiegherà Roberta bene che cos'è, se è un collettivo, se è un gruppo, se è un'associazione di rigenerazione, no speculazione, che si sta occupando di questa cosa. Roberta, ci sei? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno Roberta, grazie per essere con noi in collegamento. Allora vi racconto la storia, diciamo, di questo che è un comitato cittadino che è nato quasi 2 anni fa a Bologna, perché, diciamo, preoccupato dei progetti di rigenerazione urbana che in realtà si traducevano nella costruzione di un nuovo quartiere all'interno di un'ex area militare. Sono quello che noi abbiamo valorizzato, almeno simbolicamente per ora, come un vero e proprio bosco urbano. Sono circa 47 ettari di un'area ex militare rinaturalizzata, quindi con alberi, bosco, prati, diciamo, e alcune caserme rimaste residue, che sono a pochissime centinaia di metri dal centro di Bologna, quindi un grandissimo patrimonio ecologico, soprattutto in una città molto inquinata, nella pianura padana. Sappiamo perfettamente i dati allarmanti che arrivano da fonti scientifiche sugli effetti della qualità dell'aria, dell'inquinamento sulla salute, sulla qualità e la durata della vita. Quindi ci siamo mobilitati per chiedere che queste previsioni fossero riviste e che al posto di un nuovo quartiere si valutasse la possibilità di fare una cosa veramente, diciamo, radicale e anche molto innovativa, diciamo, valorizzare e di sostenere, diciamo, questa crescita spontanea di un bosco urbano in piena città. Perché in centro a Bologna? Sono circa 500 metri dalle mura rinascimentali, quindi sostanzialmente vicino, intorno, anzi, a uno al più importante ospedale cittadino, quindi sta già facendo un lavoro, diciamo, ecologico, di rigenerazione ambientale notevole, è lungo ed è, si trova per buona parte confinante, affacciato proprio sulla Via Emilia, quindi la arteria più importante di traffico, diciamo, della città, di traffico urbano, già molto, molto congestionata, molto inquinata, che non ha assolutamente bisogno di ulteriori interventi, diciamo, di edificazione, ma anzi. Quindi questo bosco potrebbe essere un bel polmone verde per la città di Bologna. Sì, esatto. Noi abbiamo soprattutto sottolineato non soltanto, diciamo, l'aspetto paesaggistico della fruizione, che oggi è preclusa perché si tratta di un'area ex militare, oggi passata al demanio e sostanzialmente abbandonata da più di 10 anni, però malgrado sia inaccessibile il lavoro tipo ecologico, no? Quindi che, appunto, i tecnici chiamano dei servizi ecosistemici, però che cominciamo a conoscere tutti, li sta offrendo, questo lavoro lo sta facendo questo bosco gratuitamente. E quindi per questo noi abbiamo pensato che fosse evidente che questo è un bene comune urbano, un bene comune ambientale che sta lavorando gratuitamente per la città, indipendentemente dalla politica, in questo caso sia locale ma soprattutto nazionale, visto che è un'area demaniale e sta, diciamo, rischiando ancora di più oggi visto, diciamo, il piano nazionale di, diciamo, di dismissione delle aree militari, di diventare una mera merce sul mercato immobiliare. Vogliamo che questo non accada, non abbiamo bisogno di nuovi quartieri, fra l'altro le nostre città conoscono spazi abbandonati, quindi il comitato, diciamo, sì, è nato anche per cercare di lavorare sull'idea della rigenerazione come riqualificazione, riuso, rioccupazione degli spazi che sono lasciati abbandonati, siano essi edificati oppure appunto queste aree a grande valore ecologico che non sono sostanzialmente riconosciute. Certo, come puoi immaginare ci sta molto a cuore questo tema. Senti, volevo chiederti una cosa, ma come stanno rispondendo le istituzioni a questo input? Sì, noi abbiamo un interlocutore diretto che è il Comune di Bologna, l'amministrazione, a cui abbiamo innanzitutto portato le quasi 9.000 firme che abbiamo raccolto e abbiamo chiesto attraverso una procedura che prevede lo statuto comunale di fare un'istruttoria pubblica, che è una serie di sedute del Consiglio Comunale dedicate proprio al destino di quest'area, di questo grande bosco urbano. Quindi questa è stata una richiesta a cui il Comune ha dovuto rispondere perché prevedeva una procedura che non abbiamo rispettato di 2.500 firme certificate e si è svolto tra novembre e dicembre e l'amministrazione ha risposto con una delibera del Consiglio Comunale in cui si fa qualche apertura però ancora molto vaga, quindi si riconosce intanto che quello è un bosco urbano che è stata una grandissima conquista del comitato, però rimangono delle previsioni di edificazione seppur ridotte che sostanzialmente sono contraria all'idea di veramente di fare qualcosa di rivoluzionario dal punto di vista delle politiche ambientali e urbanistiche delle nostre città, appunto investire sulla natura come patrimonio comune di cui ci vogliamo prendere cura e che noi stessi cittadini abbiamo detto vogliamo fare diventare una dei beni comuni di cui noi ci vogliamo prendere carico anche, vogliamo collaborare, vogliamo esserci, ma vogliamo evitare in tutti i modi che diventi semplicemente un pezzo della città che può essere edificato. Poi lì a Bologna c'è una rete, mi riferisco a quella di Campi Aperti, molto attiva da questo punto di vista, voi siete in qualche modo in contatto? Sì, c'è una rete a Bologna c'è una rete molto variegata di attori, collettivi, associazioni, gruppi molto informali che stanno lavorando su temi molto affini, che sono appunto vanno dalla qualità ambientale, la rigenerazione urbana, l'autogestione e siamo all'interno di questa rete abbiamo avuto scambi molto, molto importanti di sostegno, di crescita comune, Campi Aperti, diversi centri sociali, la rete Aria Pesa che ha fatto un monitoraggio autogestito della qualità dell'aria, che a sua volta è una rete, quindi include diversi attori. Quindi stiamo cercando di lavorare su scala urbana e metropolitana, perché è una cosa che assolutamente non accogliamo come critica, quella di occuparci solo del nostro giardino dietro casa, che è una delle critiche che vengono mosse spesso ai comitati locali. Noi siamo locali perché conosciamo bene il territorio in cui viviamo, ma ne facciamo una posta in gioco non locale, ma appunto innanzitutto politica, ci occupiamo dei beni comuni, ci occupiamo della qualità della vita, della qualità ambientale, ci opponiamo alla certificazione smodata del territorio e lo facciamo per tutta la città e anche per tutto il paese, non soltanto per Bologna, ma siamo in rete anche con altre realtà. Vogliamo crescere anche in questa collaborazione al di fuori del territorio cittadino. Bene, complimenti. E quindi ci dovremo per forza connettere, Roberta, anche in altri momenti, perché noi è quello che cerchiamo di fare a Firenze. No? Esatto, e colgo l'occasione anche per invitarvi alla prossima iniziativa. Abbiamo fatto diverse cose in passato, abbiamo pulito il bosco, l'abbiamo abbracciato con 2.000 persone e la prossima azione vogliamo portare il bosco in Piazza Maggiore, sotto il Palazzo Comunale, quindi ci siamo fatti ispirare dal Macbeth e vogliamo con il bosco che cammina il 16 marzo portare, diciamo, ancora una volta all'attenzione di tutta la città questo patrimonio sconosciuto, un po' nascosto, ma che sta diventando sempre più noto e sempre più difficile, diciamo, da cementificare, perché la gente si è molto appassionata, si è molto, diciamo, questo bene comune è riuscito a suscitare grandi sentimenti di attaccamento, di affezione, e ora siamo in tanti, purtroppo, per chi vorrebbe, diciamo, trasformarlo in modo molto convenzionale. Quindi il 16 marzo, sabato pomeriggio, saremo in Piazza Maggiore con il Bosco che cammina. Bene, bene, bene, non mancheremo di essere lì anche noi, o via etere, o cercheremo di mandare anche emissari. Anche di promuoverlo il mercoledì prima, insomma, se ci mandate una bella locandina a radiocontado@insiberia.net. Senti, per seguire voi invece come dobbiamo fare? A parte, insomma, allora, venire a trovarvi, immagino, lì. A Bologna. Siamo su Facebook con una pagina pubblica che si chiama Rigenerazione, no Speculazione, e poi sul sito, abbiamo un sito su WordPress che è Rigenerazione, no Speculazione, wordpress.com. Bene. Quindi qui abbiamo lo storico delle cose fatte, anche, diciamo, delle discussioni in corso con i nostri cittadini e cittadine. Perfetto. Grazie mille. Grazie Roberta, grazie mille per l'intervento. A te, buon lavoro. Buon lavoro. Beh, come diceva, una super realtà, eh? Davvero, davvero. Come diceva Mulo prima, poi quando si riesce veramente a oliare i meccanismi della connessione, della divulgazione di queste, di tutto ciò che sta succedendo in Italia di bello, di positivo, allora, insomma, uno anche soddisfatto. Soprattutto invece di sempre i soliti telegiornali dove ci sono solo notizie negative, noi almeno ogni tanto parliamo anche delle cose belle ma rare che succedono in Italia. Sì. Ma infatti pensavo a questo l'altro giorno all'assemblea del SET, alla polveriera, South Europe Facing Touristification, dove c'erano 12-13 realtà diverse, tutte riunite, interregionali, o solo delle regioni? Ma alcune erano, principalmente erano fiorentine e comunque zona urbana, zona rurale, ma non solo. E ecco, lì insomma è uscita un po' anche questa cosa, cioè in un momento in cui davvero le forze macro, forze oscure cercano di dividere tutte queste realtà, invece quello che sta succedendo è che si sta unificando sempre di più, no? Questo bisogno di autonomia, di rigenerazione, di riconversione ecologica, eccetera, eccetera. Questo è positivo, e credo sia positivo darne voce, perché se passa, non so, nascosto, o se non c'è visibilità anche di queste cose, poi uno non le vede, non le percepisce, non le palpa. Esattamente, non ci sia, esattamente. Bisogna essere megafoni e rendere esponenziale tutta questa connessione. E prima di diventare troppo romantici, vorrei ricordiamo ancora una volta di iscriverci a Radio Contado in Siberia.net, anche per idee, proposte o farci sapere. Questo intervento arriva dal nostro amico Gio di Bologna, che ringraziamo, quindi è un piccolo esempio del fatto che noi veramente cerchiamo di dar voce, magari con dei ritmi o delle tempistiche un po' lente, però insomma, scriveteci. Sì, anche perché ci sarebbero così tante cose di cui parlare, ma in realtà insomma riusciamo a dedicare questi 10 minuti, massimo 15, a ogni realtà, però in realtà continuiamo a seguirle, no? Settimana per settimana. Seguiamo, ci siamo un treno in corsa. Quindi invece se volete seguire noi, abbiamo anche noi un sito adesso, che è genuinoclandestinofirenze.noblogs.org, da poco che è online, quindi andateci, perché lì c'è tutto sul nostro mercato del venerdì, sulla garanzia partecipata, su sui prossimi eventi, gli articoli, eccetera, quindi andate a spulciarvelo. E poi vabbè, ascoltateci su Radio Wombat e anche in AM 1359. E adesso andiamo invece con i Bud Spencer Drunk Explosion, fiorentini, dei miti anche loro, così finiamo la serie dei Bud Spencer. We'll be right back. su Bandcamp potrete scaricare tutto l'album dei Bud Spencer Drunk Explosion. Mi raccomando, ascoltatelo. Fa male. Questo è oh. Sì. Oh. Questo è oh. Oh. Oh. Questo è oh. Oh. Dio l'assista amico. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Non possiamo non essere d'accordo con queste affermazioni. Complimenti a tutte le regie di tutti i programmi di Radio Wombat, è una radio che va ascoltata streaming, va ascoltata in diretta quando volete, perché ci sono tante trasmissioni molto interessanti, quindi mi raccomando. Bene, adesso insomma abbiamo già il nostro secondo ospite in linea che ci parlerà un pochino. Di che cosa ci parlerà? Tizi, ce lo vuoi dire te di cosa ci parlerà Armando? Che lo conosci bene, conosci il loro progetto. Sì, ciao a tutti. Con Armando abbiamo condiviso oltre 20 anni di occupazione del centro sociale Intifada. E l'Intifada è sempre stato un centro sociale di campagna che si è occupato anche delle problematiche dell'accesso alla terra, del biologico, uno dei primi gruppi d'acquisto nati in Toscana. Abbiamo portato Vandana Shiva a Empoli, una cosa che è stata molto importante. Insomma, ha sempre lavorato anche su e affrontato le tematiche dell'agricoltura. Quest'anno, l'anno scorso, via, perché a dicembre sono stati 30 anni di occupazione dell'Intifada e Armando insieme a altri hanno fatto questo video su 30 anni di storia che ci sembra anche importante un po' per capire quello che sono stati questi 30 anni, non solo in città, anche diciamo in periferia e fuori dalla città. E allora diamo la voce ad Armando. Armando, ci senti? Ciao Armando. Ciao Tiziana. E niente, come diceva Tiziana, il 16 dicembre 2018 abbiamo festeggiato 30 anni l'abbiamo festeggiati regalandoci un documentario su questa storia che se non si raccontava noi non la racconterà nessuno, quindi ci sembrava opportuno fissare in un documentario tutti quelli che sono stati i passaggi secondo noi importanti nell'Emporese Valdelsa con la creazione del centro sociale Intifada. Come diceva giustamente Tiziana, è un centro sociale che è nato all'interno di una lotta ambientale contro la discarica di fanghi conciati di Casa Carraia, e diciamo quella lotta lì ha dato l'imprinting del centro sociale. Ci siamo sempre poi occupati di ambiente fino a arrivare ai primi anni del 2000 a lavorare fianco a fianco con Veronelli sul progetto Critical Wine, e questo, tutto questo interessamento poi ci ha portato prima alla creazione di un gruppo d'acquisto, uno dei primi in Toscana, e poi a metà degli anni 2000 a chiudere il cerchio del gruppo d'acquisto a un'osteria biologica Outromundo, che ha lavorato per 4 anni all'interno del centro sociale Intifada, proprio a testimoniare la nostra volontà di creare un circolo virtuoso rispetto a quello che è la produzione e il consumo dei prodotti agricoli. E dobbiamo dire che su questa diciamo su questa traccia di lavoro ci stiamo continuando, perché ancora oggi tutte le volte che facciamo le cene sociali sono a cura di un'azienda agricola che di volta in volta collabora con noi. Quindi il ragionamento è quello di riuscire a creare, come dicevo, un circuito virtuoso che leghi sia il consumatore che il produttore a una visione altra di quella che è la produzione agricola. E su questo dobbiamo dire che gli anni che ci hanno visto a fianco di Luigi Veronelli ci hanno insegnato parecchio rispetto a quella che è una riflessione su che cosa vuol dire oggi produrre in agricoltura, legato alle modalità di produzione, ma anche legato alla tipologia di lavoro che esiste in agricoltura e che molto spesso, diciamo, viene emarginata anche all'interno di quelle che sono le battaglie sindacali. Quindi siete un perfetto incontro fra città e campagna. Sì, il tentativo è stato sempre questo, come diceva Tiziana, anche il fatto che dal punto di vista di posizione urbanistica siamo alla periferia di un paesone come Empoli, con a fianco poi le colline della provincia toscana, è evidente che poi tutto l'ambito che circola intorno al centro sociale molto spesso è animato da agricoltori, produttori e tutto quello che c'è che si muove intorno alle campagne. E in 30 anni avete mai avuto problemi con l'amministrazione, come vi siete interfacciati? Insomma, ci sono state delle criticità, perché anche di questo bisogna parlare. Vabbè, quanti problemi avete avuto? Senti, i primi anni sono stati duri, poi siamo riusciti, come uno dei primi centri sociali d'Italia, a forzare su una delibera che il comune di Empoli poi ha scritto per darci per circa 25 anni il centro sociale, che è un'ex scuola elementare. I problemi sono avuti in quest'ultima fase con l'amministrazione renziana in questi ultimi 5 anni, dove praticamente hanno approvato un progetto urbanistico che prevede di fatto la costruzione di case popolari al posto del centro sociale. È evidente che rispetto a questa cosa qui, noi già 5 anni fa, quando ci fu questa votazione in Consiglio Comunale, facemmo un corteo. Poi in questi 5 anni, diciamo, grossi rapporti positivi con l'amministrazione non ci sono stati, proprio per questa presa di posizione sia sull'urbanistica, ma poi su tutta una serie di questioni legate anche alla politica in generale che questa amministrazione ha sviluppato a Empoli, non ultimo la votazione del DASPO urbano, simile diciamo alla città di Firenze. Quindi i rapporti, diciamo, non sono assolutamente buoni, anzi prevediamo che la prossima amministrazione, che non si sa chi sarà, se sarà ancora PD, se sarà Lega, se sarà 5 Stelle, con cui ci dovremo confrontare duramente sicuramente per la questione del piano urbanistico, che come dicevo prima prevede al posto dell'intifada delle abitazioni popolari. Senti, lo scorso fine settimana, ciao Armando, sono Niccolò, comunque, ciao. Ho detto anche camicia, ma lo scorso fine settimana avete, insomma, festeggiato, ho visto anche che avevate invitato Biancalani, non so poi se è presentato, se è venuto, vero? Sì, no, la settimana scorsa, cioè noi il trentennale abbiamo festeggiato il 16 dicembre 2018, sabato scorso avevamo un'iniziativa in sostegno alla parrocchia di Vico Faro, vicino a Pistoia, con la presenza di Don Biancalani e di un attivista del Mediterraneo. Noi crediamo che su questa questione dell'accoglienza, su questa questione dei migranti si debba basare una delle grosse battaglie veramente di valori in Italia per ricostruire anche un'ipotesi di alternativa di sinistra, perché è evidente con questo governo e con certe amministrazioni si è fatto veramente il segno riguardo al rispetto dei diritti umani. Quindi ci sembrava opportuno rilanciare in maniera pratica, sostenendo l'accoglienza di Don Massimo Biancalani, questa cosa. Bene, bene. Beh, grazie. Non so se era. Tiziana non voleva fare nessuna domanda. Saluta. Saluto no, Armando, ha già detto tutto lui. Ebbene. Chiediamo solo ad Armando, ma visto che appunto avete fatto questo video su di voi, si trova su YouTube? Certamente, basta fare la ricerca su Google 10.950 giorni e appare come per magia il video dell'intifada. Perfetto, ce lo ricorderemo, 10.950. E diciamo il video è libero. 150 sono 30 anni sì. Di vita. Il video è stato, la regia del video è di Alessandro De Angeli, è prodotto da noi come Associazione Culturale La Basta, gestisce di fatto il centro sociale. E, ripeto, ci siamo voluti regalare questa testimonianza perché abbiamo pensato che nel momento in cui dovesse sparire un'esperienza del genere almeno rimanesse la testimonianza di quello che abbiamo cercato di sviluppare in questi 30 anni, che non sono pochi. E avete fatto bene, mi sembra un'ottima idea. E diciamo che il video è libero e invitiamo anche chiunque voglia organizzare una presentazione, organizzare un momento di confronto e di dibattito, di contattare il Centro Sociale Intifada, Comunità in Resistenza Empoli. Detto bene? Si viene volentieri, dappertutto. Bene, bene. Bene. Grazie Armando. Grazie Armando, buon pomeriggio. Ciao. Vi rinvitiamo da noi quando volete. Bene, verremo volentieri. Ci grazie. Presteremo una puntata in diretta dall'Intifada, non sarebbe male. Perfetto. Ciao. Buon proseguimento. Beh, insomma. Continuano con tutte queste realtà interessanti. L'intifada è stata la tizzana ci sta redarguendo in diretta, che non conoscevamo assolutamente niente l'intifada. Si vede che non sono abituata alle dirette radiofoniche. No, ma fai bene, tanto qui siamo in casa. Sembra di essere a casa. Sì. Per noi, soprattutto per me, la radio è anche formazione, perché io così vengo a scoprire tutte queste meravigliose realtà che ci sono. Insomma, io che provengo un po' più dal nord, magari conosco meglio le mie, qua devo ancora capire. Sì, io solo dei concerti in realtà ci senti, perché hanno fatto, insomma, sì, sono passati tutti, penso. Sì, l'intifada per la Valdelsa è stato sicuramente un punto di riferimento non solo di lotta ma anche culturale, perché sono passati veramente tutti dall'intifada, dai 99 posti che sono amici, dagli Africa United, Bobo Rondelli, sì, Mingone, il comico Caetano Veloso ci è passato, tizio. No, no, no, lo passiamo noi, siamo arrivati, lo passiamo. O fim da escravidão, o fim da escravidão, o fim da escravidão, da escravidão. Dia 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão, o fim da escravidão, da escravidão. Canta pindola, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar. Canta pindola, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar. Canta pindola, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar. Canta pindola, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar. Pra saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel, pra saudar Isabel, oh Isabel. Pra saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel, pra saudar Isabel, oh Isabel. L'applauso a Caetano Veloso, mica sembrava siciliano questo, più che Caetano Veloso. Però abbiamo potrebbe avere delle affinità. Potrebbe. Abbiamo deciso di elogiare praticamente l'incontro tra due delle più grosse invenzioni dell'umanità, cioè la radio e il telefono, oggi, perché praticamente stiamo conducendo la trasmissione in una serie di telefonate in tutta Italia, e questa cosa ci piace molto, vero Adamo? Esatto, però la cosa bella è che sono proprio sparse in tutta Italia, quindi la radio non può in questo momento andare da loro, allora ci va il telefono. Da Roma a Milano, dice la Tizi, è bellissimo. Infatti adesso si va verso nord, sempre a parlare di resistenza, sempre a parlare di resistenza in campo agricolo, non solo in Italia, ma si va dall'Italia fino al Medio Oriente, più precisamente in Palestina. Sto parlando dell'esperienza della Terra Trema, che sta per pubblicare, o comunque ha già pubblicato una parte del nuovo almanacco, almeno quello invernale 2019. E che anche loro portano un po' di campagna in città. Assolutamente, la portano in città e ovunque, nelle case delle persone, perché ci sono degli editoriali veramente belli, con dei fior fior di giornalisti e giornaliste e dei reportage interessantissimi. E salutiamo Laura, che è qui con noi al telefono. Ciao a tutti, ciao Nicolò, ciao Tiziana, che sono le voci che riconosco, un saluto a chi ci ascolta. Ciao. Oggi stiamo parlando, per inquadrarti la trasmissione, il titolo è Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza e la disobbedienza diventano un dovere, che ci avete scritto, mi sembra, un punto anche voi nel nuovo almanacco. Com'è che le esperienze rurali, soprattutto per quanto riguarda la viticoltura e l'olivicoltura, che mi sembra siano i due focus principali della vostra esperienza, ecco, quando è che tutto ciò incontrano le opinioni, insomma, le varie ragioni di resistenza? Ma sì, noi abbiamo incominciato a lavorare sulla Terra Trema una decina abbondante di anni fa, proprio venendo fuori da storie di militanza dentro spazi occupati, quindi con una connotazione prettamente, se vuoi, metropolitana. Però nel caso specifico nostro venivamo comunque da una storia invece di occupazione dentro un casello delle Ferrovie dello Stato, che invece è sito nella provincia contadina sud di Milano, e quindi in qualche modo alcune difficoltà che partivano proprio dal territorio agricolo cominciavano a trovare un respiro nella nostra pratica, diciamo, di militanza, insomma, un po' metropolitana. Poi da lì è partito tutto il percorso di Terra Trema, prima con Critica Luana e poi con Terra Trema, e quindi lavorando su questa intuizione che fu di Veronelli di iniziare a lavorare tra contadini e spazi occupati, questa cosa poi ha preso una dimensione molto più grande. Sì, infatti. No, ovviamente tanti anni che lavoriamo come Terra Trema con gli agricoltori che arrivano da tutta Italia, come dicevate voi, quest'anno nello specifico ci siamo presi anche la libertà di arrivare fino, allargando la visione sul Mediterraneo, abbiamo cercato di coinvolgere un produttore palestinese proprio perché in territori, nella resistenza sui territori, sia a Ramallah come la provincia sud di Milano, come la Sicilia più profonda, poi da lì si può cominciare a parlare di resistenza e di, insomma, lavoro sui territori. No, devo dire poi che insomma, almeno dall'editoriale che si legge, adesso l'ultimo l'avete chiamato Ardere o Ardire, no? Che è molto, sì, molto forte. Come... lì prendevamo le mosse da questa... Noi ogni numero dedichiamo uno spazio a un... Anche lì usiamo un po' l'almanacco per andare a trovare e a conoscere un po' meglio i produttori che partecipano alla Terra Trema da più o meno, insomma, da più tempo o meno tempo. Per cui per noi è anche uno strumento, insomma, per indagare un po' di più il lavoro che facciamo poi di ricerca sull'agricoltura in Italia. Ardire Ardire partiva da questa coincidenza capitata quest'anno di un viaggio in Sicilia, coinciso con una eruzione, un terremoto e tutto quello che consegue, le pendici dell'Etna, e quindi insomma dall'esperienza contadina di questi due piccoli produttori, molto molto piccoli, anche esperienze molto giovani, e quindi una serie di posizioni che si devono prendere rispetto alle persone che abitano quel territorio, rispetto a quello che il territorio proprio ti mette di fronte, che può essere un terremoto, come una colata lavica, come insomma altri tipi di manifestazioni che l'Etna riserva a chi la coltiva. Sì, quindi sì. Ardere Ardire prende le mosse da quello. Sì, infatti è bellissimo. Poi è bellissima anche la parte, insomma, tutta il racconto sul gusto e sul disgusto dello stomaco, poi in relazione anche con il decreto Salvini, eccetera. Cioè, insomma, spaziate, giustamente non rimanete nell'ambito tecnico, c'è una interessante parte sullo spumante e lo champagne, poi c'è anche l'ambito umano, quando parlate nel sasso di Concetta, e poi però insomma dite anche proprio la vostra dal punto di vista politico, ovviamente le due cose non si possono scindere, no? Sì, purtroppo per fortuna la natura è quella, e quindi ci siamo trovati, il numero che hai visto tu è l'ultimo, quello che chiude diciamo il 2018, è quello che viene dopo la Terra Trema, che è la manifestazione grossa che ci prende tanto lavoro, e quindi sono un po' considera anche tutto quello che è successo, un anno di lavoro sull'almanacco, un anno di lavoro sulla manifestazione, e quindi si carica di tutta una serie di riflessioni che vengono a seguito di queste due cose qui. Precede invece l'annata nuova, sono praticamente si aprirà il quarto anno di pubblicazione con l'almanacco, e quindi adesso ci sarà da lavorare sul primo numero del 2019. Bene, e i prossimi appuntamenti, come vi scandirete questo 2019, ovviamente, in vista del prossimo Terra Trema, ovviamente? Ma allora, noi continuiamo, nel corso dell'anno facciamo, appunto c'è questo almanacco che è diventato un momento di riflessione molto, forse anche più importante rispetto alla costruzione poi della Terra Trema stessa, che insomma, ormai abbiamo dei tempi di lavoro su quella costruzione lì e sappiamo come adeguarci alla necessità di produrre poi soprattutto contenuto, perché poi la manifestazione ospita tanti produttori, però al contempo è un'occasione per proporre a chi partecipa come pubblico una serie di riflessioni che appunto prendono spunto da quello che succede nel corso dell'anno, da riflessioni che appunto partono da quanto si è incontrato anche attraverso lo strumento almanacco, per cui in questo momento stiamo lavorando sull'almanacco che uscirà a marzo, quindi programmando una serie di lavori intorno a questa nuova pubblicazione. Bene. Credo che Tiziana voglia chiederti o dirti qualcosa. No, no. Infatti dalla Terra Trema, dai tre giorni di fiera, veniamo via tutti molto felici, però anche pensierosi, diciamo, appunto, perché non è solo un momento di vendita, di incontro dei fruitori della festa, ma è anche un momento di incontro tra i contadini, i viticoltori e non solo, che sono lì alla Terra Trema. Soltanto quei tre giorni sono talmente così intensi che poi non c'è tempo per elaborare, che poi dopo le feste di Natale, la Terra Trema si fa alla fine di novembre. Poi dopo a gennaio, che è anche un momento più calmo, i contadini cominciano a macinare, sì, o a scrivere, e penso che da quest'anno è nata proprio la voglia di incontrarsi e sviluppare ancora di più questo dibattito e questo percorso. E l'almanacco penso è proprio il mezzo, il filo che ci tiene uniti tutto l'anno, al di là dei 3 giorni della festa. Che meraviglia, ma dove lo si può trovare l'almanacco? Allora, l'almanacco, la Terra Trema è un sito che contiene un po' tutto quello che succede nel corso dell'anno, tutte le nostre riflessioni, e contiene anche parte delle pubblicazioni che abbiamo fatto fino a questo momento. Poi c'è la possibilità di riceverlo, perché sostanzialmente l'almanacco poi è anche materia cartacea, per cui si può anche ricevere a casa o dove si preferisce, quindi se vuoi io vi mando un indirizzo di posta elettronica, che è info@laterratrema.org, e lì chi ci scrive riceve le modalità per partecipare e per, insomma, in qualche modo supportare questa produzione, che è autofinanziata, è auto, insomma, non ha nessun tipo di sponsor, come la Terra Trema è una realtà che si indipendente, si autofinancia. Bene, grazie. Grazie davvero. Laura, grazie mille. Grazie a tutti voi. Ci riaggiorneremo tra un po', come al solito. Seguiamo sempre questa esperienza. A presto. Ciao Laura. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Beh, oggi sembriamo il centralino di Sanremo. Veramente, un'altra telefonata, ma poi tutte dense di cose, di informazioni, un sacco di spunti, chi vuole poi potrà leggere, guardare video, insomma, bene. info@laterratrema.org per appunto informazioni, almanacco, partecipazione alla Terra Trema, eccetera, quindi mi raccomando. E poi se li trovate i vecchi PDF sul sito, leggeteveli, c'era un numero, sembra estivo autunnale addirittura, c'era un articolo sull'esperienza tua, Tiziana. Sì, vero? Sì, sono venuti appunto, come diceva Laura, che con l'almanacco poi vanno a trovare direttamente i contadini che partecipano alla Terra Trema. Sì, era primavera, mi sembra, ora non sì, mi ricordo bene. Sì, forse sì, è passato in fretta. E sono venuti a trovarci, hanno visitato l'azienda, abbiamo parlato di olivi, perché comunque ora con la Terra Trema cerchiamo di portare avanti un discorso sull'olivicoltura, che appunto non è solo parlare di qualità e eccellenza, ma l'olivo rappresenta molto di più, non solo in Italia ma sul bacino mediterraneo, e l'esperienza di Farid, questo agricoltore palestinese che ha partecipato alla Terra Trema, ci ha raccontato un po' della loro esperienza. Proprio oggi mi è arrivato un post da lui dove gli israeliani con le ruspe oggi hanno buttato giù centinaia di olivi da loro piantati come forma di resistenza. Quindi la repressione si può svolgere in tanti modi, si può attuare in tanti modi diversi. Sì, gli auguriamo di piantarne milioni. Esatto. Adesso, per rimanere in terra lombarda, un cantautore lombardo. Grazie, me ne fai conoscere, perché vedi, non li conosco e sono contento di allargare gli orizzonti oltre Po. Buon ascolto. Richiedo ferie non pagate per 30 anni, non chiamatemi se serve, ho ancora cose da imparare, e mi inventerò un mestiere, poi mi metterò in pensione per riflettere su che cosa sia mai il proprio dovere. Non mi annoiano i paesaggi tutti uguali, ho piuttosto un'avversione a questi centri commerciali, e ho trovato nelle tasche solo note delle frasi, ma credo proprio che non bastino a risolvervi la crisi. Per sicurezza me ne resterò da solo, siete troppo contagiosi e son geloso del mio culo. Vi scroccherò una sigaretta, che è solo uno dei tanti modi per bruciarsi e farlo in fretta. E adesso fredda solitudine, fammi compagnia come non mai. E la solitudine, fammi compagnia come non mai, come non mai. Accettare a che piovano dai tetti solo padri disperati e non politici corrotti. Tra i miei denti c'è più sole che nei vostri paradisi, e le vostre museruole non cancellano i sorrisi. Ora che avete preso tutto e deturpato la mia aria, io respirerò il silenzio per pensare quando è sera, e pensare a come fare a stare in piedi in mezzo al nulla, scivolando sul sapone di cui è fatta questa bolla. E beato chi sprofonda e ha finito di sperare che la madre degli stronzi, sempre l'ultima a morire, hanno giocato a camuffarsi, a camuffare le parole. Non l'ho letto sul giornale, ma se ascolta sa intuire. E adesso prendo solitudine, fammi compagnia come non mai. E adesso prendo solitudine, fammi compagnia come non mai, come non mai. E adesso prendo solitudine, fammi compagnia come non mai. E adesso prendo solitudine. Solamente un altro giorno da dimenticare, perché siamo come i cani quando arriva l'uragano, quando abbaiano irrequieti perché è più forte di loro. E sopravviverò perché ho ancora il deserto da vedere e la voglia di nuotare, d'universi da inventare. Mi abbandono e nel naufragio trovo il mare, trovo il mare, nel naufragio trovo il mare. Madda, grazie dello spunto. Prego, prego. Ogni tanto qualcosa di diverso lo porto anch'io in questa radio, che musicalmente non è che sono proprio ferratissima, però... Guarda, tanto come gli after hour non ci sarà mai nessuno. No, assolutamente. Io dopo che sono stati messi quelli, sono sicura che qualsiasi cosa propongo io sia non comunque si può sbagliare. Meglio. È il momento dell'agriquizzettone, 3-2-1 con la sigla, evviva, torna in tutta carica l'agriquiz. Più o meno torna, in realtà la sigla ha avuto un problemino, adesso va, adesso va, adesso va. Vamos ao agriquiz e precisamos de separador humano, António Raminhos. Siglona preferita dal mulo. Vai, la lasciala andare, goditela in attesa del muro. No, no, abbiamo raggiunto degli tacciti accordi. Oltre 30 secondi la musica irlandese non si può mandare a Radio Contado. E così lui non può mettere gli after hours, capito? Sono quelle. Vabbè, è politica da sì, sì. È quel compromesso che non accontenta mai nessuno, però. Meglio tutti mezzo contenti che uno contento e uno scontento, diceva il tale, forse, ma potremmo dibatterne assai. Tiziana è qui con noi di nuovo, ancora, sempre nei nostri cuori. Ciao, ricordiamo per chi ci segue appassionatamente sempre, insomma, che Tiziana ci ha fatto una bellissima puntata sull'olio, perché comunque è una maestra, molto dentro, è una grande maestra, maestra nel fare e maestra di vita, dai, devo dire. Sì, esagerati. Sì. Un baluardo della comunità dell'esistenza contadina, Jérôme Laronze, e oggi invece non ci parlerà di olio, almeno forse solo in parte. Perché un altro tema di cui è ispiratrice è la trasformazione e la conservazione. Lei è la trasformatrice per eccellenza. Accorriamo numerosi da lei quando c'è bisogno di pastorizzare le cose e a chiedere consigli su come si fa, insomma, a mantenere buone e mangiabili i prodotti che si fanno, che si trasformano, che si mettono in barattolo, che si seccano, insomma, ce lo faremo spiegare un po' da lei, perché lei ne sa. Perché ne sa, vero o no, Tizi, che ne sai? Insomma, è il mio lavoro e quindi con l'esperienza, quando ti piace fare una cosa, poi cerchi di farla al meglio, questo. E poi diffondere la conoscenza, penso sia una cosa importantissima. Sì, infatti si presta anche a insegnare a persone come me che sono un po' capre in queste cose, ma io una volta ho avuto la fortuna di andare da lei e imparare l'arte della marmellata di mele cotogne. Eh sì, perché poi nel momento in cui si raccoglie, insomma, o si coltiva, se non si sa trasformare, poi se non si sa conservare, no? Insomma, si entra in un grande problema, soprattutto poi quando si va a vendere le cose al mercato, vero o no? Sì, appunto, sai, al supermercato c'è sempre tutto in qualsiasi stagione. Madre natura non è così, ci dà tanto nel momento giusto, e quindi trasformare e conservare quello che coltiviamo e che madre natura ci dà anche spontaneamente, basta raccogliere, possiamo farci la nostra dispensa invernale per avere sempre prodotti biologici nostri. E quando poi facciamo le cose da noi, sprechiamo anche meno, acquistano un valore diverso, e quindi non butti via la marmellata che ti sei fatta per te. Quindi a livello di un ecosistema nostro anche funzionale... È un po' riprendersi un po' la propria vita, comunque, no? Fa parte, te la riprendi in tanti modi, e uno è anche questo, autoprodursi il cibo. Senti, in particolare che cosa trasformi te, di cosa sei esperta, diciamo? Nel mio piccolo laboratorio trasformo un po' di tutto, però diciamo la cosa che ultimamente mi ha dato proprio tanta soddisfazione sono i succhi di frutta, che non troviamo facilmente anche nei mercati, ne viene fatto un largo consumo anche da bambini, e tra un succo di frutta vero fatto con la frutta fresca, col succo fresco della frutta, e invece un succo liofilizzato e poi ridiluito in acqua, c'è tanta differenza. Beh, direi. E queste le papille gustative, e non solo, insomma, se ne accorgono. Sì. Ma c'è sempre un tema aperto quando si parla di queste cose, che sempre porta poi alle discussioni o comunque a un attimo a parlarne, ed è il seguente: gli ingredienti. Quando si può, si trovano ingredienti, ovviamente nel campo, sono quelli di nostra produzione, eccetera. A volte però c'è bisogno di andare a trovare ingredienti, penso appunto si parlava dello zucchero, a volte può essere il cacao, a volte può essere altri prodotti che è difficile reperire, ovviamente a chilometro zero è inimmaginabile. Ma insomma, anche conoscerne la provenienza, garantirne la genuinità, a volte è un problema. Come ti muovi te, e secondo te anche come comunità, come uno dovrebbe muoversi in questo senso? per esempio per quanto riguarda le trasformazioni, questa è una questione che abbiamo anche affrontato col gruppo di garanzia partecipata del nostro mercato. Per esempio, per la trasformazione, lo zucchero è una delle materie prime importanti per la produzione di confetture e di succhi di frutta, che però ovviamente da piccoli produttori non è impossibile trovarlo, quindi ti devi per forza rivolgere a commercianti che importano zucchero dal resto del mondo, perché comunque viene prodotto poi soprattutto Brasile, Argentina o in altre zone. Infatti gli ignoranti come me usano lo zucchero ecosolidale, che sì, proviene da... Per esempio, per la trasformazione, usare degli zuccheri come per esempio il mascobado, zuccheri molto integrali, di ottima qualità, però hanno un loro perché, hanno una loro personalità, hanno un gusto di liquirizia che va poi a coprire spesso per esempio il gusto della frutta che trasformi, quindi è necessario, cioè, questo è il mio pensiero, poi ognuno faccia come vuole, quindi è necessario trovare uno zucchero che non copra il sapore della frutta, uno zucchero che non sia sbiancato chimicamente, quindi grezzo, e uno zucchero che sia biologico. Io ho cercato anche in questi anni da commercio eco e solidale, per un periodo l'ho trovato, poi hanno smesso di fornirlo perché le forniture poi dai paesi di produzione non erano costanti, e oggi se lo trovi solo in pacchetti da un chilo, e per chi ci lavora occorrono invece altri tipi di quantità, e quindi avere 30 pacchettini poi da buttare via è un po' assurdo, è anche un po' uno spreco. Comunque noi in realtà come comunità dell'esistenza contadina, nodo di Cinero Clandestino, alla fine l'idea è quella di pian piano, no, trovare delle sostituzioni, dei sostituti, organizzarsi anche per creare dei gas, per fare un gas per esempio, acquistare in massa uno zucchero che sappiamo di buona origine o potrebbe essere comunque altro ingrediente, e quindi poi riuscire insomma a cambiare una certa abitudine. Io poi che mi sono occupata un po' di cercare appunto la fornitura di zucchero per il nostro nodo, e ho avuto anche la piacevole sorpresa di trovare che Italia Zuccheri è l'unica azienda italiana che produce zucchero dai propri associati. Le cose stanno cambiando, da questa campagna metterà in vendita da ottobre zucchero di barbabietola, perché da noi la canna da zucchero non c'è, però la barbabietola da zucchero è sempre stata una coltivazione importante, produrranno zucchero da barbabietola biologico, e quindi siamo rimasti in contatto per poi a ottobre, novembre, magari se riusciamo a fornirci questo zucchero. Chiunque sia interessato, scriveteci a radiocontadoinsiberia.net e poi potremo mettere in contatto con tutta la filiera. E tra trasformazione e conservazione, secondo te, percentuali di tempo di lavorazione? Perché si pensa poi sempre alla trasformazione, a volte viene un po' lasciato lì il tempo della conservazione, quando in realtà è probabilmente tanto importante quanto la prima fase. Quanto sarà più o meno, se hai calcolato te, quanto tempo passi a trasformare e quanto tempo a lavorare per la conservazione? Allora, a trasformare occorre un po' più di tempo, ovviamente poi dipende anche da che tipo di prodotto. Se fai carciofi, ovviamente trasformare occorre tanto tempo. Per la conservazione alla fine si riduce all'imbarattolamento e al tempo di pastorizzazione o sterilizzazione, che però di solito, cioè, in casa mettiamo la pentola con i barattoli a bollire e va da sé, mentre lei bolle te puoi fare anche altre cose. Però sono alcuni fattori importanti di cui bisogna tenere presente per avere una buona trasformazione e conservazione. Beh, ne parleremo dopo i Sex Pizzulli. Foxes, grande Sex Pistols, il gruppo fiorentino. Bravi, bravi, bravi. Torniamo qui a Frittole con Tiziana e l'AgriQuiz su trasformazione e ora con un focus sulla conservazione. Ho studiato un pochino, sono partito dal primo millennio e ho scoperto che i prodotti essiccati risalgono appunto a più di 1000 anni fa, che forse è stato uno dei primi metodi e ancora prima proprio la conservazione al freddo, quindi nelle cantine, che poi è arrivato fino al secondo millennio. E in generale, tra tutte le conservazioni, ovviamente quelle in frigo possono coprire solo certi aspetti, ma te quali prediligi? O meglio, in base ai trasformati che fai, quali metodi di conservazione, insomma, sono i più sicuri? Allora, i fattori di controllo sono più di uno, ovviamente. Per quanto riguarda la frutta, dipende dalla qualità della frutta, più sana è, meglio è. Se invece usiamo della frutta a volte per fare le composte, le confetture, si usa la frutta magari un pochino più scadente, allora qui il fattore di controllo deve essere maggiore. Quello, diciamo, l'alimento che conserva è lo zucchero. La mia esperienza in più di 10 anni di trasformazione mi dice che con 300 grammi di zucchero per chilo di frutta cotta, di massa che viene lavorata, non fresca. Non è un chilo di zucchero per un chilo di frutta come ti spacciano tutte le... Fare le per candite, me fare lo la guardi frutta e dici, ma com'è possibile che ci siano queste proporzioni? E quindi basta poco zucchero, poi quando ti trasformi le cose per te sei te libero di scegliere. Un po' di zucchero ci vuole per la conservabilità. E poi cotture veloci e non cotture a fiamme troppo alte e neanche lunghe. Quanto ci vuole per cuocere un'albicocca? 20 minuti? Allora, prima di tutto per sanificare il prodotto dalle spore di botulino, che è il nostro nemico principale, bastano 3 minuti a 120 gradi. Quindi con un termometrino di quelli da cucina uno misura quando la massa della frutta raggiunge 120 gradi, dopo 3 minuti si può spengere il fuoco. Ma in cucina poi, si può fare a raggiungere 120 in un fornello, sì, normale, cioè sì, anche sì. La marmellata, diciamo, sì, si sì. Arriva a 120. Sì, sì. Quando bolle così abbiamo sconfitto il botulino, soprattutto nelle lavorazioni in casa. Poi se usiamo alcuni strumenti, il botulino si controlla anche attraverso gli zuccheri che sono all'interno della frutta. Con 35 gradi Brix, gradi zuccherini, il botulino non si sviluppa. Quindi vuol dire 350 grammi di zucchero per un chilo, di vero? Media è un po' così, Brix, questa è la mia esperienza, però questo dipende anche dalla frutta, perché un anno con tanto sole, di stagione perfetta, un'albicocca, io ho avuto delle albicocche che hanno avuto di suo 28 gradi Brix, altre annate 18 gradi Brix. Come si calcola questo? Io uso questo strumento che si usa anche in vigna per vedere quando c'è gli zuccheri giusti nel chicco dell'uva, però in casa non tutti hanno questa strumentazione, è stupido spendere anche dei soldi così. Quindi taglia la testa al toro, 400 grammi di zucchero per il chilo di massa, non ci si sbaglia. Cotture veloci, possibilmente anche cotture al vapore se si lavorano piccole quantità di frutta, perché non importa neanche fare sempre grosse, una giornata intera per trasformare, anche tutti i giorni, un giorno una piccola quantità si può trasformare. L'altra cosa, l'altro fattore di controllo è il pH, l'acidificazione che io di solito faccio con succo di limone. Poi secondo che frutta c'è, non occorre, perché ha 4 di pH di suo, altra frutta invece... Deve stare intorno al 4, 4, 5. Sì, 4, 3, 9, così. E anche quello, con quello il botulino non si sviluppa, e quindi abbiamo il prodotto in sicurezza. Poi la pulizia è l'altra cosa fondamentale, lavorare in ambienti puliti, con strumenti puliti, pulire bene la frutta, lavare bene tutto ciò che usiamo e anche i barattoli. I barattoli vanno sempre sterilizzati comunque prima di... Anche se uno riporta a 120 gradi per 3 minuti e c'ha l'acidità al 3,9... Allora, se sono barattoli nuovi... non ci sono problemi. Se sono barattoli che ricicliamo, questo sta a noi di riporli in dispensa vuoti dopo averli lavati in lavastoviglie o comunque sterilizzati. Si possono mettere anche in forno e accendere il forno per un po', quando hanno raggiunto i 60-70 gradi in forno una quindicina di minuti. Questo è comodo, perché nelle pentole quando ne fa tante è sempre un problema, almeno perché lo fa in casa, usare tanti barattoli, finisco sempre mi ustiono io. Sì, sì, invece nel forno è un buon modo per imbarattolare, stringere bene i tappi e poi metterli nella pentola con l'acqua e far bollire da quando stacca il bollore, perlomeno quando stacca il bollore l'acqua, perlomeno 20 minuti. Bene. Questo per le confetture o i succhi di frutta. Per quanto riguarda poi invece i trasformati vegetali, il salato è un po' diverso. Ma vale il metodo che faccio io, adesso mi fustigherà la maestra Tiziana, che non faccio dopo bollire i barattoli, ma ci metto la marmellata bella bollente, la tengo sempre col fuoco sotto, dopo un po' che bolle, vedo con le bollicine, poi inizio a travasarla, chiudo e mi fa il sottovuoto. Sì, si può fare, ma non hai la sicurezza al 100%. Poi, qua, reggi il barattolo in mano, ci butti la confettura a bollore, ti ostiuni, fai veloce, non stringi bene o... Quindi io consiglio di ribollire per 20 minuti, poi però ognuno è libero Col barattolo chiuso di nuovo. Col barattolo chiuso di rimetterla a bollire per 20 minuti. Anche quello di girare il barattolo messo capovolto, insomma, ha un fine limitato. Lascia il tempo che trova. Sì, un po' a se stesso, insomma. Allora, no, un paio di curiosità che ho trovato, tutto è cominciato, l'uso dello zucchero fin dal XV secolo, è cominciato a utilizzare in Liguria per fare i canditi, poi è arrivato Nicolas Appert, che era un cuoco, un pasticcere di Parigi, che ha cominciato con l'intuizione che il riscaldamento in acqua bollente e la chiusura ermetica servivano a conservare le cose, ha cominciato proprio a creare le prime conserve in vasi di vetro, in un atelier. Circa fine 1700. In Italia i nomi spicco sono nell'Ottocento, dice Francesco Cirio, mi sono chiesto se era quello con quel passata. Cirio lì e Pietro Sada. E il primo nel 1858 apre a Torino la prima fabbrica di piselli in scatola, senti un po' che info. E poi arriva Louis Pasteur, che ho scoperto poco tempo fa, che è da lì che deriva il nome pasteurizzare. Figurati la mia ignoranza, che nel 1860 e 70 ha individuato proprio nello sviluppo dei microrganismi la causa principale dell'alterazione degli alimenti e nel loro trattamento di inattivazione attraverso il calore il fondamento del metodo di conservazione. E poi vabbè, negli anni 60 in Europa poi sono arrivate tutte le chiusure in plastica e quelle hanno rovinato in realtà il tutto, anche perché il Tetra Pak eccetera eccetera. Però quindi insomma, se ci basiamo su questa scoperta di Pasteur del 1800 in realtà come base per la conservazione. Sì, che comunque portare il prodotto a 60 gradi, perché la pasteurizzazione si fa intorno ai 60-70 gradi, fa andare il sottovuoto e dà una sicurezza alimentare. D'altra parte, nell'Ottocento, con l'arrivo dell'era industriale, è cambiata totalmente la vita dell'uomo. Prima l'uomo si autoproduceva tutto il cibo e scambiava le proprie produzioni con altre produzioni che non faceva. Dopo, quando gli esseri umani sono andati a lavorare in fabbrica, si è snaturato tutto e anche il bisogno di avere del cibo già pronto, soprattutto quando le donne sono dovute andare a lavorare anche loro e non sono potute prendere cura dell'alimentazione della propria famiglia. Benissimo. Ora, visto che sta scadendo il nostro tempo, faccio delle domande alle quali vorrei in realtà che tu rispondessi solo se sei d'accordo, non sei d'accordo o non lo so. Vai. Va bene? queste l'ho prese da una grandissima fonte, ve lo dico dopo qual è. Per far maturare più velocemente i pomodori vanno conservati con la frutta, perché l'etilene accelererà il processo. Sai, non sai, sei d'accordo o non sei d'accordo? Sono d'accordo. Vai. La mela. Ma, sì. Un foglio di carta da cucina, un tovagliolo di carta assorbiranno l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. Sì. Messe in un paio di vecchi collant puliti, appese in un luogo asciutto, fresco e buio, come un armadio o una soffitta, le cipolle dureranno fino a 8 mesi. Non ho mai visto un collant. Non sono d'accordo. Non sei d'accordo. conservare le patate accanto alle mele, rimarranno più a lungo senza germogli, fino a 2 mesi. Non lo so. Ah, attenzione. I broccoli andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto, perché sono ortaggi che respirano, cioè consumano ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule, molto velocemente. Camicia, sono parecchio difficili queste domande, certo. Sono curiosità. No, del broccolo, anche questa non lo so. Senti questa. Una mela ammaccata contagerà le altre più facilmente, poiché l'etilene viene prodotto in grandi quantità quando un frutto è sottoposto a stress e traumi, come una botta. Cioè la mela famosa mela marcia che fa marcire tutte le altre. Questo è vero, ok. Quindi dice di consumarla per prima. Io, vabbè, sì. La temperatura ideale di conservazione delle uova in frigorifero è di 4-5 gradi. Qua consiglia di evitare di tenere nella porta del frigo, dove generalmente c'è lo spazio per le uova, andando a tenerle in alte dove fa più freddo, perché... Boh. Io le conserverei fuori dal frigo, come faccio. Wow, grande, beh, allora... Possono stare fuori dal frigo per un mese le uova. Hai vinto. Ah sì, Sì, basta quando che siano fatti al supermercato, non sono in frigo. Sì, basta che non siano in un ambiente troppo caldo, no? Tendenzialmente una temperatura normale. Perché l'uovo è perfetto. Perché l'uovo della gallina, anche se è 40 gradi, non va male. Grande. Che spettacolo. Beh, noi ringraziamo la Tizio per questa super pizza. E ma te, ma la carne la conservi te o te la mangi o non la fai? La carne la mangio, mi piace, in modica quantità, e possibile, quando è possibile mangio la mia, le mie galline. Comunque sei carnibale? Sì. Bene, andiamo a farci dire bene che cosa vuol dire essere carnibale dagli Incamiscia. Sono carnibale. Per colazione mi mangio una rana fritta azzuppata nel sangue di put. Per merenda una gallina cruda me la mangio con tutti quei piumi che... Per pranzo bistecca condita con bistecca, e una bistecca pure me la trito e me la bevo. E i resti ce li do al mio cane. Ma tanto non ci resta niente, mio cane. È un terribile. Tutti ci fa paura il mio cane. Dice io il mio cane ci dovrei mettere la museruola. Ma se io ci metto la museruola, quello prima si sprana alla museruola e poi si sprana a me. Ma per fortuna io giro sempre con un gatto in tasca. E ci tiro il gatto, quello si va a pressa il gatto. Mio cane è un terribile. Artigli accumulati come steletti, sanne come scemotarre, mandibole ma che dico, mascelle ma che dico, mascelle di... Mio cane non è un cane. È un dinosauro rex. Satanato di sangue e anche e amante focosa e appassionata. Nessuna donna poteva mai resistere al fascino di un cannibale. Fortissimi morsi nei denti, fortissimi morsi nelle gengive, fortissimi morsi nella ciupa. Farvi capire quanto sono un cannibale. Una volta per colazione mi sono mangiato a un leofante intero, pure con quel cazzo di indianino che lo cavalcavo, l'ho usato come stuzzicadenti all'indianino. I pesci a acquarmi la bocca hanno dovuto disboscare l'Amazzonia, hanno dovuto disboscare. Attaccare dopo una canzone così meravigliosa come quella degli In Camicia, chi non li conosce, insomma, che vada a documentarsi, perché è un gran gruppo, un gran gruppo. Sempre tutto su Bandcamp. Ci sono anche dei video, insomma, notevoli, notevoli, devo dire. Ma stranamente non passiamo adesso a una telefonata, perché siamo riusciti a far venire da Mondeggi direttamente qua una serie di rappresentanti, ben quattro ne vedo, insomma, quindi però, no, tre, però tre con uno che, guarda con un radiospettatore, esiste il radiospettatore, perché settimana scorsa o nelle puntate precedenti vi abbiamo parlato di questa iniziativa, di questo gruppo che sarebbe ritrovato per il meeting annuale, credo, esatto, europeo, cioè, no, europeo, meeting annuale europeo, Reclaim the Fields, e quindi abbiamo qua, insomma, tre dei partecipanti e volevamo chiedere loro, ma come sta andando? Magari giusto due parole per ricordare a chi magari non ha ascoltato le puntate precedenti che cos'è Reclaim the Fields, una cosa brevissima, ma soprattutto come sta andando in questi giorni a Mondeggi. E ça va être en français. Ça va bien, ça va. Parlerà in francese, ma abbiamo sicuramente altre due grandissime volontarie che tradurranno. Alors, la question c'est... Che cos'è brevissimamente Reclaim the Fields? Alors Reclaim the Fields, c'est un réseau de paysannes ou de paysans sans terre qui remettent en question l'agriculture conventionnelle, habituelle, intégrée dans le système et qui cherchent d'autres solutions pour produire, pour vivre dans des zones rurales ou pas et pour remettre en question justement trouver une manière de vivre qui soit pas trouver des alternatives à la manière de faire de l'agriculture conventionnelle. Reclaim the Fields, quindi è una rete europea che è nata più o meno 10 anni fa e diciamo sono contadini e contadine senza terra o che vorrebbero ottenerla, che lavorano e si organizzano per creare un'agricoltura e una sostenibilità alimentare fuori dal sistema. Perfetto, quindi direi che stiamo bellissima, parlando con la comunità giusta. Parfait, c'est une synthèse. E quindi la prossima domanda è, ma quindi a Mondeggi in questi giorni cosa sta accadendo? Cioè che cosa state facendo? Coltivate, zappate, raccogliete, parlate? Per ora abbiamo organizzato quello che saranno i 4-5 giorni, non mi ricordo più, di incontro. Che quindi si basano molto su assemblee dove si parla sia di funzionamento interno della rete, sia di quelli, ci saranno delle presentazioni di tutte, vengono chiamate stelle che vanno a comporre la costellazione di Reclaim the Fields, quindi questo avverrà nei prossimi giorni, ci sarà una presentazione di tutti i gruppi che sono venuti a partecipare e ci saranno dei workshop anche pratici, diciamo, che verranno proposti dai partecipanti e ci sarà tutta comunque l'organizzazione quotidiana di far organizzare le assemblee, organizzare la traduzione, perché appunto essendo un incontro europeo ci sono persone che o non parlano inglese o parlano solo francese o italiano e quindi abbiamo anche tutto un sistema per tradurre più o meno simultaneamente le discussioni e vedremo. Avete già idea di quanti gruppi e di che varietà, da dove arrivano più o meno ci sono o è ancora presto? Alors, il y a pour le moment une quarantaine de personnes et ça représente pas vraiment tout le réseau, c'est juste des gens qui viennent. Et per il momento siamo circa 40 e non rappresenta tutte le persone che insomma sono in contatto con questa rete, ma sono solo le persone che hanno potuto essere qui adesso e Et en fait, là, il y a des gens d'Italie, de France, de Suisse, d'Allemagne, de Roumanie, de Grèce, de Pologne. Ci sono persone, insomma, che vengono dalla Polonia, dalla Slovenia, dalla Romania, dalla Francia, dall'Italia, dalla Grecia. C'è una persona che viene da Hong Kong e che è interessata per creare, anche ci ha detto questa mattina, una rete simile in Asia, perché questo non esiste, e quindi è venuto un po' anche per vedere come ci si organizza qui in Europa, almeno come questo gruppo si organizza in Europa, per provare a fare la stessa cosa in Asia, insomma di unire un po' chi cerca di coltivare la terra un po' in modo diverso, ecco. Interessante. Moltissimo. C'è un po', chiedo, la sensazione che qui in Europa, insomma, questi movimenti siano abbastanza pionieri in questo modo di organizzarsi tra varie realtà internazionali, o invece ci sono spunti presi da altre realtà, mi viene in mente Semterra o altri, però hanno dei diversi modus operandi, diciamo. Non so se... Sì, io... sì, questo movimento all'inizio era molto era legato alla Via Campesina e si è ispirato anche ai movimenti brasiliani e l'idea è proprio quella di è una rete che si sta costruendo e soprattutto questa è l'Assemblea Europea, però quello che diciamo più va nel pratico sono i gruppi locali, che per il momento funzionano di più, sono più attivi in Francia o in Inghilterra, però è lì che proprio si crea il tessuto delle persone che localmente si conoscono. Diciamo che questa Assemblea Europea dovrebbe essere un po' un incontro per tenersi al corrente di quello che succede nei vari paesi europei. Insomma, un po' come il genuino clandestino. Sì, perché sì, sì, anche certo, noi siamo un po' organizzati così, insomma, i nodi locali lavorano poi sul territorio, portano avanti, e poi ci sono gli incontri nazionali, sì, di riflessione, di condivisione. No, una domanda molto pratica, quindi è la vostra assemblea, quindi quando parlate di workshop sono per voi o c'è qualcosa anche di aperto all'esterno, se qualcuno volesse partecipare sentendo questa puntata radio? Beh, penso che siano assolutamente aperti a chiunque voglia partecipare e anzi penso che tutti sarebbero contenti se ci fossero più proposte addirittura per proporre temi, tematiche, workshop, pratici o non. E quindi assolutamente sì. Adesso l'unico problema, che non è un problema ma che non è ancora stato definito cosa faremo nei prossimi giorni di preciso, stanno uscendo adesso le proposte, quindi è una costruzione in divenire. Esattamente, sì. Però se qualcuno è interessato può venire a Mondeggi e annusare, conoscervi, parlare. E come vi hanno accolto a Mondeggi? Silenzio. Oh, no, dobbiamo sgridare. No, volevo far rispondere il rappresentante francese, perché va bene, esatto, la risposta perché... è per il rappresentante francese. È la première fois che tu vieni, sì, è la prima volta che vieni. C'est la première fois que je viens à Mondeggi. Et On est très bien accueillis et je suis très impressionné par la manière dont c'est structuré et dont le groupe arrive à gérer l'accueil de beaucoup de monde, la question paysanne et la production sur un espace aussi grand avec les contraintes politiques qu'il y a derrière, de risque d'expulsion, etc. Pour moi, c'est un sacré exemple. Siamo stati accolti molto bene da Mondeggi e anche molto impressionati da come il gruppo, insomma, degli abitanti, in generale il gruppo che organizza Mondeggi, riesce a gestire appunto l'accoglienza di gruppi un po' numerosi come possiamo essere noi in questo momento, il lavoro agricolo, la produzione, con tutte le difficoltà legate anche alla situazione politica e instabile. Quindi molto... un esempio molto impressionante, in un senso buono. Ma l'ultimissima domanda, dai, poi prego, li lasciamo andare ai loro stavano lavori. Forse devono tornare... Esatto. Finite queste giornate, se qualcuno volesse conoscere gli esiti, se noi volessimo poi dare un rimando di come è andata, produrrete la documentazione, dove si potranno trovare informazioni, come? C'è una newsletter? Sì, c'è un sito che è reclaimthefields.org. Esatto, e su questo sito ci sono le notizie, insomma, anche di prossimi incontri, e soprattutto c'è una specie di un bollettino che esce dove ci saranno, insomma, tutto quello che si è discusso in questa assemblea, come anche delle iniziative dei vari gruppi locali. E questo viene pubblicato sul sito una volta all'anno. Perfetto. Bene, ragazzi. Voi avete delle curiosità? Volevate lasciare un appello, dire qualcosa? Lui lo vedo carico. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit sur Reclaim the Field, juste avant. È qualcosa che non abbiamo ancora detto su Reclaim the Fields? Pour la manière dont ça fonctionne, c'est important pour nous que la question paysanne ne soit pas la seule question dans Reclaim the Fields. È molto importante che il tema dell'agricoltura non sia solo l'unico tema, il tema centrale. Et on questionne beaucoup d'autres questions sociales, politiques, d'inclusion, de genre. On essaye de pas être un monde paysan marginal au sens caché, mais d'affirmer quelque chose auprès du monde autour de nous. È un movimento che vorrebbe includere nella tematica agricola anche una serie di questioni politiche, sociali, di genere, di rapporti di dominazione, e pensare come questo, insomma, come questo si include nella produzione di cibo. Beh, merci beaucoup. Direi che grazie anche voi mille siete a Chiara, Cecilia, Jacopo giusto. E Tom. Detto bene? Grazie. Sì, siete. Cioè, alla fine poi i luoghi giusti ce li vengono fuori, perché no? Ce li cerchiamo fin quando non li troviamo. Quindi. Speriamo di rimanere in connessione, insomma. Ovunque sarete la prossima volta, magari anche come radio. Cercheremo di dare voce a tutte le iniziative, anche questo di movimento, perché mi sembra che sia molto collegato comunque anche. Abbiamo creato anche uno spottino, insomma, per questa radio che sta girando in questi giorni, da settimana scorsa, ogni ora, cioè sì, abbiamo improvvisato in diretta e poi è stato bellino, è venuto, è nato e si è riprodotto. Beh, grazie mille. Grazie. Si manda, alla prossima, visto parlavamo di Brasile, viene quasi automatico mandare un brano da quelle parti, no? Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. gente sete a vez a madrugada pra romper um novo dia. Puxa a cortina da mesma lentamente e você vai ver o samba em pessoa falando com a gente. Quando a noite cede a vez à madrugada pra romper um novo, novo e lindo dia. Puxa a cortina da mesma lentamente e você vai ver o samba em pessoa falando com a gente. Presto organizzeremo anche un workshop su come fare radio con pochi strumenti e con tanta voglia, no? Non sarebbe male, insomma. Perché in realtà, davvero, ricordiamo, abbiamo cominciato a ottobre grazie a un collettivo stupendo, quello di Radio Wombat, con cui ci incontreremo proprio stasera, visto che c'è l'assemblea mensile. E con una breve formazione, con le stesse idee, un paio di computer, un mixer e due microfoni, insomma, siamo riusciti a far partire questa esperienza di voce contadina attraverso il mezzo radiofonico. E una cosa che chiunque può in realtà replicare, questo sarebbe forse il vero obiettivo, poi, a parte sì, dare voce esatto. alle cose e moltiplicare le esperienze, come per l'appunto quella di fare radio. Bene. Libera. E pronti per la prossima sigla, per l'ultima micro rubrica, prima di salutarci, perché siamo proprio alla fine. Via! Quando vuole il tuo Rio. Vuoi cantare un altro pochino? Oh, è bellissima questa sigla, è una delle più belle create dalla televisione italiana. Infatti noi l'abbiamo usata, cioè, abbiamo bellissima. Detto facciamola un po' nostra. Sigla rassegna eventi, vai Dama. Allora, vabbè, insomma, come abbiamo appena sentito, continua Reclaim the Fields fino a sabato, che vedrà il culmine, insomma, la chiusura un pochino all'Emerson, giusto? Con un momento di incontro, uno scambio di semi, una giornata insomma molto importante. Poi ricordiamo come al solito gli eventi del venerdì, e quindi vi aspettiamo al Mercato Contadino in Piazza Tazzo, dove non l'abbiamo detto, però ovviamente potrete trovare anche la nostra trasformatrice Tiziana appena sentita. Troverete sì tutti i prodotti, forse in questo momento le verdure scarseggiano, però abbiate pietà, ma purtroppo nell'agricoltura scarseggia la verdura in questo periodo. Ciò che non scarseggia invece sono le cene, ce ne sarà una brevissima proprio per Mondeggi a Grassina, se non sbaglio, sì, alla Casa del Popolo di Grassina, venerdì 15 febbraio. leggiamo il menù perché almeno vi facciamo venire l'acquolina in bocca. Pinzimone fettunta con olio nuovo di Mondeggi, minestra di pane fatta bene da Mondeggi, stufata di capriolo nostrano con crostone di polenta, questi caprioli non sono coltivati a Mondeggi ovviamente, gorgoglione di verdure con crostone di polenta, misticanza di stagione, dolce a volontà con acqua e vino compresi, 8 euro, a seguire la lotteria. Se andate sulla pagina Facebook di Mondeggi ci sono poi anche tutte le indicazioni per prenotare e soprattutto oltre alla cena ci saranno ricchi spettacoli di cui però non vi diciamo granché per stuzzicarvi e incuriosirvi nel partecipare. E poi quanto mas? Questa mas, settimana, no? Così siamo tranquilloni. Questa settimana no, ci sarebbero 8 miliardi di cose da ricordare da 7, 1, 2, 3 marzo. Esatto, sostanzialmente ricordiamo che per chi sta ascoltando il podcast di questa trasmissione andate ad ascoltarvi anche gli altri podcast sul sito di Wombat, trovate tutta la lista con le canzoni mandate, gli argomenti trattati, abbiamo parlato veramente di tutto e di più finora, quindi spulciate ed ascoltate perché sono sempre 2 ore di grandissima cultura e non mancano ovviamente le cazzate. Ma scriveteci a radiocontadinsiberia.net perché abbiamo bisogno di un vostro contributo in tutti i sensi. È indispensabile, senza di voi siamo perduti. E incredibile ma vero, 16:26 con Mulo che in questo momento sarà già dentro la Sapienza. Mulo ti pensiamo, con te. Siamo sempre con te a mangiare le pizze al taglio. Addestrali bene questi sapientini. E porta la voce oltre il Granducato. E beh, direi che si manda un... Beh, visto si manda sempre cose sconosciute che dici, la dama dice che conosco solo io manderei un Lucione Dalla. Oh, vai. Perché non si conclude, ovviamente si manda sempre un pezzo importante alla fine. E... dove è finito il Lucione Dalla? L'avevo visto. Tra i primi, sai, era lassù in cima. Lo troveremo, ma sì, perché ogni tanto bisogna variare, bisogna mettere anche qualcosa che il pubblico conosce, perché così magari può cantare. Esatto, e poi insomma, chi non la conosce questa canzone? Disperato, erotico, Stomp, la versione rimasterizzata e con questa vi... Grazie a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao, grazie ancora al dottor Io qua accanto che fa delle magie in regia. Grazie. Ciao. Che non ero io, ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò, mentre con me non ti spogliavi neanche la notte e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta. Tutti e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese. Non era tanto freddo e normalmente. è partita la mia mano.